Quando Rosa torna dal villaggio, sola sola e vesta in volto, io la seguo ma non ho il coraggio di pregarla darmi ascolto. Dolce è la sera, ben lunga è la via, a farla insieme ben lunga saria. Son fili d'oro i suoi capelli biondi e la boccuccia d'ora, gli occhi suoi belli sono neri e fondi e non mi guarda ancora. Ho parlato al nostro buon curato e m'ha detto: figliuol mio, se l'amore in te non è peccato, sarà pago il tuo desio. Arde il mio cuore, ma pure la fiamma, a volei sola alla casa e la mamma. Son fili d'oro i suoi capelli, biondi e la boccuccia d'ora, gli occhi suoi belli sono neri e fondi e non mi guarda ancora. E l'ho vista uscir dalla chiesetta con un'aria di mistero. Io le ho porto l'acqua benedetta, ma sorriso e non par vero. Che buon curato m'ha detto passando, ed io le ho chiesto: ma quando, ma quando? Capelli biondi e la boccuccia d'ora, gli occhi suoi belli sono neri e fondi e non mi guarda ancora. E insieme andando per la via sogniamo la testina d'oro. Sussurra t'amo ed io rispondo.